11.35, riprendiamo la diretta. Insomma, sembra che ci sia una iniziativa in corso di svolgimento, ci sembra sicuramente importante, quindi con piacere gli diamo spazio. Pronto? Sì, ciao, pronto. Sì, questa mattina il Movimento dell'Acqua Romano, il club, insieme anche a gli attivisti, gli occupanti del Movimento del Diritto all'Abitare, sono andati a appunto bloccare l'accesso al messaggero di Caltagirone, con un'azione chiaramente simbolica, comunicativa, in una giornata che è quella di oggi, in cui molte mobilitazioni si attiveranno in giro per l'Italia proprio contro i gestori privati del servizio idrico. Chiaramente l'iniziativa di oggi è diretta a Gaetano Caltagirone, che è appunto il proprietario del messaggero, ma è anche il proprietario di molto cemento qui a Roma, è il proprietario anche di un enorme pacchetto azionario di Acea, e sostanzialmente è uno di quei rappresentanti dei poteri forti, così definiti a Roma, che appunto contano molto nella capitale romana, negli equilibri, ma soprattutto negli affari e nella costruzione di profitti. Quest'oggi siamo appunto venuti qui di fronte al messaggero perché il suo organo di informazione, tra parentesi, è uno di quelli che più chiaramente e parzialmente racconta quello che accade a Roma, a partire da i giochi di potere che avvengono dentro Acea, dentro al Campidoglio, le vendite di servizi pubblici di cui molto spesso lo stesso Caltagirone è uno degli acquirenti, ma è anche uno di quei giornali che è riuscito a scrivere gli articoli più infamanti, ad esempio sui movimenti del diritto all'abitare, a partire dalla vicenda dell'occupazione dell'8 marzo alla Magliana, passando per l'ultimo tsunami tour con le occupazioni, e dando largo spazio alle teorie di complottiste e di terrorismo. Insomma, oggi è stata una piccola azione comunicativa per ricordare a Caltagirone che c'è in questa città un'opposizione molto radicata e radicale che lavora costantemente contro gli interessi non solo suoi ma quelli dei privati, per ristabilire quelli degli interessi collettivi, quelli che sono diritti che spettano e spetterebbero a tutti e a tutte. Brevemente, appunto, oggi è stata un'iniziativa comunicativa, sono stati portati simbolicamente dei mattoni a bloccare l'ingresso al messaggero, e simbolicamente appunto abbiamo cantato che dal cemento non nasce niente, ma dall'acqua pubblica nascono i fiori. È appunto un'azione simbolica per però comunicare quella che è una resistenza costante e continuativa che questa città attraversa da anni e continuerà a attraversarla, e che non ha solo voglia di resistere, ma voglia di cambiare radicalmente la faccia di questa metropoli e poter anche cacciare via i personaggi come Caltagirone. Insomma, mi sembra che anche lo slogan sia abbastanza efficace, insomma, di mattone davvero Roma non credo ne abbia bisogno, ce n'è anzi fin troppo, forse andrebbe meglio amministrato e calibrato rispetto poi alle esigenze che realmente sono avvertite, no, da questa città. Di case ce ne stanno fin troppe, no? Anzi, in questo momento c'è anche una fortissima quota di case che rimangono vuote, non solo sfitte ma anche invendute. Questi continuano a costruire ugualmente, e evidentemente poi è normale che a qualcuno, come si suol dire, gli roda un po' il chiccherone e vada a occuparle le case, no? Tra l'altro a Caltagirone gli è andata anche piuttosto malino rispetto proprio alla conquista di una percentuale di azionariato maggiore in Acea. È un po', quindi, forse ancora tampinato per quanto dovrebbe esserlo, non lo è, ma insomma dei piccoli passi in questo senso si stanno facendo, fortunatamente. Sì, è chiaro che, come dicevo prima, c'è una fortissima resistenza. Caltagirone è un personaggio simbolo, diciamo, di quella che è la speculazione a Roma, ed è una speculazione, come appunto dicevi te, che viene fatta mangiando ettari e ettari di territorio, facendo colate di cemento eccessive, invadenti, frutto di una speculazione, perché appunto sappiamo bene quante migliaia di appartamenti sono rimasti vuoti, e non certo per... Anche una brutta edilizia, no? Diciamolo, nel senso che anche dal punto di vista della qualità progettuale, architettonica, non è, lasciano molto a desiderare le case di Caltagirone, questo per parentesi. E sicuramente, per esempio, non hanno minimamente nessun tipo di organizzazione, come tutta l'urbanistica di Roma, con quelli che sono i territori che appunto vengono utilizzati esclusivamente come terreno di caccia, esattamente come quelli che sono i servizi che dovrebbero essere garantiti. E pensiamo tranquillamente appunto alle quote ACEA, che appunto il servizio idrico dovrebbe essere un servizio garantito, ma così come possiamo pensare anche ad altri speculatori che girano come avvoltoi su, per esempio, l'AMA, che gestisce i rifiuti, e quindi tutto quello che è l'indotto di profitti e di speculazione che viene fatto sui servizi. Non è un caso che proprio tutte quelle battaglie che si oppongono a questo tipo di speculazioni e cominciano a immaginare un'alternativa reale, che sia appunto l'edilizia popolare, l'autorecupero, il recupero degli spazi vuoti, ma anche la ripubblicizzazione di ACEA, una gestione differente dei rifiuti, non per esempio passando per gli inceneritori e via dicendo. Non è un caso che queste battaglie si stiano incontrando sempre di più e stiano articolando un discorso comune, perché evidentemente c'è una dinamica che è comune a tutte queste speculazioni, e di cui chiaramente tutti i cittadini di Roma, noi in prima persona, siamo appunto vittime, e quindi comincia a chiarificarsi molto chiaro, diciamo, i due fronti della barricata: da una parte i privatizzatori e dall'altra quelli a cui viene sottratto un diritto. Una vecchia dicotomia, sfruttatori e sfruttati, insomma, una parolaccia che non va più tantissimo di moda, però insomma che forse proprio i movimenti dal basso stanno riscoprendo e a cui stanno dando nuovo significato e nuova linfa. Bene, senti, avete incontrato difficoltà sul terreno dell'iniziativa di questa mattina? No, bisogna dire che i dipendenti del Messaggero sono assolutamente impassibili, evidentemente abituati anche a subire costantemente anche delle contestazioni. Alcuni giornalisti che sono passati si sono fermati, ma non più di tanto, diciamo. Abbiamo bloccato, adesso abbiamo appunto smontato anche il muro simbolico che avevamo alzato, insomma, diciamo che non ci sono stati molti problemi, ma insomma diciamo che il Messaggero, da questo punto di vista, abbiamo detto prima, è uno degli organi di informazione appunto più schierati e di parte, e per cui anche molto abituato a sapere da che parte sta, e quindi sa benissimo di poter subire delle contestazioni. Va bene, ti ringraziamo allora. Grazie a voi. Ciao a tutti e a tutte. Ciao.